la campana, lora suona, lora suona, non lontana, che più strada non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutto con ardore, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar. Cantan tutto con ardore, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar. Oh, paesano, ti piacciono le campane di San Giusto?